Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Siamo leggermente in ritardo, grazie a tutti della cortese attenzione, grazie a Luca Giulio per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Ci sentiamo.